benvenuti e bentornati. Siamo sempre noi, siamo sempre qui e questo è il vostro programma rock preferito, All Time Rock and Roll, pensa te, su Radio F. Pensa te. Grandi, grandi ragazzi. Che sigla, wow, ragazzi. Wow, wow, wow. Che sigla, che sigla. Ci teniamo infatti a ringraziare nuovamente Roberto Tiezzi e tutta la Ballantine Band per averci permesso di usare la sigla iniziale del loro spettacolo Rock Age. Vero, oh, proprio spettacolo, nel vero senso della parola. Veramente grazie. Siamo tutti! Siamo tutti! Oggi no, siamo meno tutti. Male! È tornato! È tornato! Dobbiamo fare l'appello? Ma mancavo, dai! Io solo mi sentivo! Facciamo un appello? No, vabbè, sì, facciamo! Dai, allora, io ci sono, Patru, ci sono. Luke? Sì, sì, mi sembra di esserci. E il super biondo c'è! È tornato! Super biondo! Allora manca il Bindi, scusa! È al bagno! Ah, è al bagno, è con la scimmia, con la Big Jim, Big Jim Mazzeo! Di la verità! Dimmi, dimmi! Il Bindo un'altra volta. Ce l'ha fatto l'altra volta. Dopo la puntata mi ha fatto: Bindo, ti prego, insegnami. Sì. Insegnami come insegnami come fare a fare una regia così pessima. Insomma, com'è? Sei tornato? Sì, sei tornato perché di la verità ti hanno squalificato. Già, bravo, sono squalificato. Per forza, che vuoi dire? Non avevo tempo. Dai, andiamo con questo. Insomma, dai. Ragazzi, fine settimana da urlo, eh? Siamo stati anche a teatro. Ci hanno invitato bello a teatro. Andateci al teatro. Ci hanno invitato a teatro come ospiti. Cioè, siamo già diventati famosi. E io non c'ero, chiaramente. Cioè, da veri signori, palchetto centrale in mezzo sì, al teatro. Bello, veramente. Da veri gentleman. Ci hanno applauditi, ci hanno acclamati, ci hanno osannati. Ci hanno infamati. Ecco. Oddio, sì, soprattutto quando fa il primo e il secondo atto abbiamo fatto il fugone. Mega fugone. Corredato da finta telefonata, tra altre cose. Ah, quella è una tattica mia. La finta telefonata, ragazzi, la telefonata. Era tardi, doveva andare al lavoro, via. No, a parte scherzi, comunque andate a teatro perché è veramente un'esperienza bellissima. Poi ti è rimasta nel cuore quella ballerina. Ragazzi, lo sapete, io per le ballerine non devo. C'aveva quell'apertura all'aria, Bellissimo, bellissimo. Lo sapevo, sì. Sì, ma oltre le ballerine un po'. Un po' tutto. Vabbè, andiamo avanti, dai, si inizia questa... Di cosa stavamo parlando, ragazzi? Ora ho in mente la ballerina, mi sono scordato tutto. Della quarta puntata di Time Rock and Roll. La quarta è ultima. È ultima, sì, come sempre. Chiaramente. Allora, sempre. Iniziamo questa quarta puntata facendo i nostri più sentiti auguri a Andrew Stephen Bone, detto Andy. Nato a Buckingham il 27 marzo del 46. È un bassista. È nato a Palazzo, a Buckingham. Sì, a Buckingham è nato. Palazzo del Pero. Non era. È un bassista, tastierista e compositore inglese della rock band gli Status Quo. Voilà. Whatever You Want. Giusto? Fantastico. È il titolo di una celebre canzone della rock band inglese. È la più celebre, è stata pubblicata nel 1979. Con questo loro grandissimo successo vogliamo dedicargli i nostri auguri di buon compleanno. Tanti auguri, auguroni! Whatever you want. ragazzi. Bellissima, questa, bellissima, bella, bella. Siamo tornati e facciamo gli auguri, i secondi auguri. Ah, secondi. Adesso facciamo anche secondi i secondi. Auguri. Eh sì, oggi sì. Siamo già la carne? Sì. Ah, io la frutta. Va bene, andiamo avanti. Questa è la pista. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di John. Come Mayer. Sarebbe stato? Perché sarebbe stato? Sarebbe sì, stato. Se sarebbe il 2° compleanno, se non fosse morto prima. Esatto, ecco, magari. Va bene. Ah, ecco chi la leggeva, Nanno. Il padre. Ci siamo scordati. Ci siamo scordati di dirti che è scritto male. Però va bene. Va bene. È colpa nostra, Vada a braccio, vai a braccio. Lui è John Mayer, nato a Ipswich il 27 marzo del 1947. Sfortunatamente morto però a Glasgow. Il 26 marzo del Sono di Glasgow. 26 marzo del 2009, quindi purtroppo un giorno prima del suo compleanno. Anche Madonna, quando si dice che sfortuna. Lui, tanto non ti senti. Dai. Lui è stato il terzo batterista, ma anche la voce del gruppo Genesis. Lui ha sostituito in precedenza il batterista John Silver, che fu a sua volta sostituito dal signor Phil Collins. Ma insomma, pensa te. Era il secondo tempo di una partita di calcio, tutti sostituiscono. Va bene, buona, buona. Il 27 marzo però è anche nato Anthony George Tony Banks. Nato ad East Otley il 27 marzo del 1950. Lui è un tastierista, compositore e polistrumentista. Anche lui fa parte del gruppo di Genesis. Sì, due piccioni con una fava oggi abbiamo preso, oggi perché sì. Genesis, due membri in un sol giorno sono nati. Quindi auguri a tutti e due. Lui ha studiato pianoforte fin dall'infanzia ed è stato amico di Peter Gabriel ben prima di cominciare con lui la carriera di artista. A loro vogliamo dedicare la canzone dei Genesis, Land of Confusion, che è il quarto singolo estratto dal 13° album dei Genesis, Invisible Touch, del 1986. Quindi adesso Genesis, Land of Confusion. bene, bene. Allora, abbiamo finito i nostri auguri. Abbiamo fatto i nostri due, anzi, barra tre auguri. E adesso apriamo la rubrica sulla storia del rock. Continuiamo con la storia della musica. Rubrica nuova, non si è mai fatto. No, nuovissima. Nuovissima. Dopo avervi parlato degli inizi degli anni 60, dei pionieri che hanno iniziato la cultura del rock, oggi vi parliamo precisamente del periodo che va dal 1964 al 1966. Infatti nella scorsa puntata abbiamo iniziato con gli anni 60, dai 60 al 64, e abbiamo deciso di dividere appunto tutti gli anni 60 in quattro parti, e questa è la seconda parte. Bene, era giunto il tempo perché qualcosa cambiasse, ma serviva ancora un elemento catalizzatore. Il Misery Beat cambiò per sempre la storia della musica. Questo nuovo stile musicale proveniva dal niente, ma si portava dietro il potere della storia. La Gran Bretagna aveva avuto una scena musicale pidocchiosa per tutti gli anni 60. Per lo più, i rockers inglesi scimmiottavano The King, Elvis Presley. La Gran Bretagna, con il suo tipico aplomb, non si identificava con il rock and roll. Non apprezzava quelle attitudini ribelli. Non si divertiva ai suoi ritmi frenetici. In altre parole, il seme del rock era già stato piantato, ma la Gran Bretagna, diversamente dagli Stati Uniti, ebbe prima una scena alternativa, i Blues Club. In Inghilterra spuntavano Blues Club ovunque. Londra ne era l'epicentro, ma un po' in tutte le maggiori città inglesi avevano le loro dose settimanali di blues. Diversamente dalla controparte rock, che era costruita attorno a degli imitatori. Il cosiddetto British Blues contava su veri innovatori che plasmarono le materie del blues fino a farla diventare qualcosa di diverso. Cominciò una metamorfosi che trasformò il blues in musica bianca. Si enfatizzavano i ritornelli epici, si velocizzavano le chitarre ritmiche di Chicago, le parti cantate venivano smorzate perché il suono fosse più operoso, si riflettevano i cori, si aumentavano gli arrangiamenti e si aggiungevano armonie vocali. In pochi anni i musicisti di British Blues si trovavano a suonare qualcosa di profondamente sentito, come era il blues americano, ma con una potenza che nessun altro aveva sulla terra. Agli albori degli anni 60, i veterani di quella scena, o se si preferisce i discepoli, portarono alla formazione di band come i Beach Boys, i Rolling Stones e gli Who. I Rolling Stones divennero la nuova rivoluzione del rock a Londra. Al numero 4 di Denman Street, presso il Regent Sound Studios, registrarono i singoli di maggior successo di quegli anni. Ma partiamo sempre dall'America, dal 1964. Era il tempo dei Kings, era il tempo di All Day and All of the Night. All day and all of the night. Adesso vi faremo ascoltare la storia di un signore americano, un ometto che ha solamente rivoluzionato la cultura del barro rock and roll. Ladies and gentlemen, James Brown. Nessuno, vai! Vi parleremo del suo primo brano che... che è entrato nella top 10 e anche primo brano a contenere le future caratteristiche del soul e del funk. Papa's Got a Brand New Bag. Infatti fu scritto nel 1965. Il testo racconta di un mago delle sale da ballo, perfetto nel passare da una danza all'altra e da uno stile all'altro. I balli citati nel testo sono The Jerk, che è lo strappo, The Fly, la mosca, The Monkey, la scimmia, The Mashed Potatoes, il purè di patate, The Alligator, l'alligatore, o pulpo. Il twist e il ballo del boomerang. Nanno, signore e signori, questo era Nanno in Translate. Nanno in Translate. Bello, però, bello. Poi mi spiegate come si balla il purè di patate? Io credo di saperlo. Con ma l'olio in radio... e il sale e il pepe. Ma in radio non lo posso dire. Come faceva a ballare un ballo che... sul purè di patate? Un po' scomodo. Comunque, torniamo a noi. La prima registrazione doveva essere solo di prova, ma venne così, così energica che si decise di tenere quella. Prima di cantare si sente James Brown dire: ci sono un sacco di parole qui, perché non era riuscito a memorizzarle tutte. E infatti piazzò davanti a sé un leggio con il testo. Si sente anche chiacchierare una voce e dire: questa è una hit. Purtroppo nelle successive ristampe il brano è stato, diciamo, un po' così pulito. Già, peccato, peccato. Comunque adesso vi faremo ascoltare, appunto, James Brown, con Papa's Got a Brand New Bag. Marrone. Bene ragazzi, questo era James Brown. Rimaniamo sempre in America e parliamo un po' dei Beach Boys, che al patro piacciono molto, vero? Sì. Barbara Ann nel 1961 la cantavano i Regents, ma i Beach Boys la registrarono quasi per gioco, non immaginandosi che la canzone potesse finire su un singolo. La loro casa discografica, la Capitol, la fece uscire su singolo senza nemmeno avvisarli. I ragazzi da spiaggia non la presero bene, perché stavano cercando di crescere e di conquistare il pubblico adulto, e quella canzone sinceramente assomigliava a una filastrocca da divertimento, non sembrava l'ideale. Ma il successo fu clamoroso, nonostante Carl Wilson avesse dichiarato che avrebbe fatto a pezzi tutte le copie presenti nei negozi. Allè. Ragazzo calmo, grandissimo. Mi somiglia per certi versi. La vera Barbara Ann è Barbara Ann Fassert, sorella minore di Fred Fassert, ovvero componente dei Regers, autori del brano. Che cognome buffo, Fassert. La curiosità imperdibile sulla canzone è la versione dei Who nel documentario The Kids Are Alright, e invece discutibili le parodie in tempo di guerra dei Capitol Steps, gruppo satirico americano, che trasformarono Barbara Ann in Taliban durante l'invasione dell'Afghanistan. Ho preso l'esplosivo? Ma non sono americani, non lo sappiamo perché. Barbara Ann, The Beach Boys. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. You got it. Let's try it once more. One more time. It's more artistic flavor. You got me rocking. Bene ragazzi, adesso andiamo in California. Ehi! Ale, ma a registrare? Se va, se vai, va, via. Allora. Radio F California. Ragazzi, sentiamo la prossima, volta rock and roll dalla California. Oh, ciao. Sono Mami! No, andiamo in California per parlare dei Mamas and Papas. Fatemi finire. Stavo di Schwarzenegger. California Dreaming nasce dal desiderio di viaggiare di una coppia di sposi. Precisamente Michelle e John Phillips, membro del gruppo. È inverno, Michelle vorrebbe essere in California dove è cresciuta. E fu così che non si riuscì ad andare più avanti. Voglio essere in California, ma solo te, guarda. Sapete che le donne sono problematiche. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, i due ne parlano. La notte John si sveglia all'improvviso con un verso in testa e praticamente... è il testo della canzone All the leaves are brown and the sky is grey. Tutte le foglie sono marroni e il cielo è grigio. Parole abbastanza scontate, ma l'eccitazione che avverte è quella che conosce bene. L'ispirazione sta per arrivare. Capisce che sta nascendo qualcosa e sveglia la moglie. Quella notte viene concepita California Dreaming, un singolo che diverrà di successo mondiale. I due coniugi non devono far altro che mettere in musica la loro nostalgia per Los Angeles e la California. La chiesa che apre la seconda strofa, Stop the church I pass along the way, che significa mi fermai in una chiesa lungo la strada, è la cattedrale di San Patrizio che i due avevano visitato due giorni prima. La canzone viaggiò molto più a lungo del loro matrimonio, che si concluse nel 1968. A tutt'oggi i Mamas and Papas hanno venduto 44 milioni di dischi. Soli? Mica. Solo 44? Mica. California Dream. Bene, siamo tornati e continuiamo a parlare della storia del rock. Adesso parliamo di Paul Simon e Art Garfunkel. Quella. Loro misero insieme la canzone Il suono del silenzio nel febbraio del 1964, a pochi mesi dall'assassinio del presidente Kennedy. 22 novembre. 22 novembre? Sì, Dallas. Bravo. Che? La serie Bravo. Televisiva? È stato lui. La rifanno, ha visto? La rifanno. La rifanno. Il quale aveva What's Dallas Daje? E Daje? Fallo finire perché sennò è la fine, già si sfora. Il quale aveva scosso la coscienza di una nazione e suggerito a Simon l'atmosfera per il brano. Era una delicata ballata condotta da una chitarra acustica che raccontava il senso di impotenza e di solitudine e di chi si era ritrovato come vecchia amica l'oscurità. La registrarono il 10 marzo del 64, uscì in ottobre, per il primo album di Simon e Garfunkel. Ma purtroppo fu un insuccesso totale. Meno di 2000 le copie vendute e a quel punto Simon e Garfunkel separarono le loro strade. Per loro fortuna, fra i loro editori della Columbia, c'era anche Tom Wilson, che aveva favorito e condotto la conversione elettrica di Bob Dylan. Wilson prese la registrazione acustica del duo e aggiunse elementi elettrici, chitarra elettrica, basso elettrico e batteria. E ripubblicò il singolo senza nemmeno avvisare Paul e Art, 5 minuti prima di salire su un piccolo palco in uno squallido club di Copenaghen. Ormai sfiduciato, Paul Simon era ormai convinto di dover passare la vita da un luogo anonimo all'altro. Invece fu informato che The Sound of Silence era rientrato in classifica e che probabilmente non si sarebbe fermato tanto presto. Non si fermò, così come la carriera di Simon e Garfunkel, che tornarono insieme e ricominciarono, anzi, cominciarono. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.

gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Bene, quando uscì Painted Black nel 1966, in molti pensarono che fosse un test razziale, colpa di una virgola misteriosamente ed inspiegabilmente stampata sulla copertina prima della parola black, che comportò non poche incomprensioni, visto che sembrava una un'esortazione di Pingy, nero, dove nero non poteva essere solo il colore, ma anche l'uomo di colore. Invece è la triste storia di un ragazzo che, dopo aver perduto il suo amore, vorrebbe dipingere di nero tutto quanto, per intonare le cose della vita al suo umore nero e malinconico. La musica nacque per gioco quando Bill Wyman cominciò a improvvisare all'organo un riff tipico dei matrimoni ebrei, solo per fare il verso a Eric Keystone, che prima di fare il manager degli Stones era stato organista dilettante. Charlie Watts gli andò dietro aggiungendo qualche melodia medio orientale. In questo modo gli Stones avevano scoperto il ritmo che poteva fare da contraltare al testo. Rolling Stones, Painted Black. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Adesso, carissimi rockers, parliamo degli Who e della loro generazione. Chi? Who? Chi? Who? Appunto. Who? I chi? Il gruppo. Significa chi? Spero di morire prima di invecchiare. È un No, no, dice così il testo. Tranquillo. Parlavi della canzone. Patruzzi viene interrotto proprio in una maniera. Ma è il testo. È che me la serve sul piatto. Naturalmente, proprio. Ma scusa, dice spero di morire. Io un pezzo male, no? No, vabbè, cioè, era. Speravo che lo dicesse il biondo. Va bene, comunque. I tempi. Spero di morire, il testo dice, spero di morire prima di invecchiare. È uno dei versi più citati nella storia del rock. My Generation entra nella storia per la musica aggressiva e selvaggia, con uno dei primi assolo di basso di sempre. Per i risvolti sociali divenne inno di tutti i giovani convinti che gli adulti non potessero capire, solo per il fatto di essere adulti. E così divenne un inno di generazione. In questo brano Peter Townshend, e questa volta l'ho detto benissimo, settimana scorsa era impronunciabile, vabbè, comunque lui incalò non solo la rabbia, l'abbiamo rimesso apposta, lo so, siete andati a cercare quello. Lui incalò non solo la rabbia ma anche lo svuotamento, la mancanza di una direzione che lo stava attanagliando. My Generation era un modo per combattere la società ma al tempo stesso per trovare un ruolo all'interno di essa. Leggenda vuole che lo spunto per scriverla fu una decisione della regina madre, che aveva fatto portare via dal carro attrezzi la macchina di Townshend perché offendeva il suo gusto estetico quando faceva il suo giro in bene, città. Godo con quel cognome. Godo. Leggenda forse, però l'unica cosa certa è il successo memorabile della band inglese The Who, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. My I'm just talking about my generation. What we all get around. My Generation degli Who. Bene, ragazzi, è arrivato il nostro appuntamento famelico. Il nostro fenomeno del giorno. Bene, oggi, questa settimana, apriamo la nostra rubrica sulle notizie più strane del mondo. Quest'oggi non andremo a parlarvi di personaggi mentalmente ed estremamente stupidi, ma di sfighe. Visto che a volte i protagonisti delle nostre notizie sono anche spesso soggetti a sfighe epiche. Avete capito bene? Sfighe, non, sfighe. Non sfide, sfighe. Nel programma su Rai 3. No. Comunque oggi parleremo di Nima Hussein Razi. Ale. Un turista irlandese. Irlandese. Faccio. Nome irlandesissimo. Dublino Alta. Hussein Razi, no, Dublino Alta. Forse molto bassa in realtà. Dovrebbe essere Dublino Beach. Recatosi in vacanza nella mitica London. Purtroppo durante la sua sfigatissima vacanza Razi si è ritrovato a che fare con la famosa rigidità degli addetti al traffico londinese, per quanto riguarda soprattutto il famigeratissimo divieto di sosta. E sì, infatti il nostro protagonista lo ha imparato a sue spese e ha decisamente in modo inaspettato. Sì, infatti tutto ha inizio quando Razi parcheggia la sua auto tra la House of Commons e l'abbazia di Westminster, quindi in pieno centro di Londra, proprio in pieno. Per la verità la decisione di parcheggiare la macchina in divieto di sosta non è che l'ha fatto per pigrizia o comunque sia perché non trovava altri parcheggi, ma solamente dal fatto perché la sua macchina era proprio rotta. Poveraccio. Cioè, quindi cosa deve fare? La sgonfia. Più di lì non andava. Quindi vabbè. E in tutto questo, tra altre cose, è stato anche abbastanza furbo perché ha lasciato un biglietto di precauzione dove spiegava che la macchina era guasta. E però nel mentre, anche un po' di nervoso sicuramente, una volta messo il biglietto ha deciso di allontanarsi dalla macchina e sgranchirsi un po' le gambe. Ed è proprio qui che è iniziata la sua sfortuna. Sì, perché in quel momento passava una pattuglia polizia londinese che nota l'auto. Poiché le auto parcheggiate fuori posto sono relativamente insolite, più o meno come in Italia, insomma. Anche a Foiano. Gli agenti insospettiti da tutto questo hanno addirittura pensato che potesse trattarsi di un'autobomba. Aia. Piazzata strategicamente. Vabbè, Hussein Razi e ci sta. Piazzata strategicamente nel centro di Londra. Ah. E cosa potevano fare se non chiamare gli artificieri e boom! L'hanno fatto saltare in aria, così, per sport. Che idioti. Infatti sì, è successo proprio questo. Hanno fatto letteralmente brillare in aria l'auto del nostro protagonista. Chiaramente l'hanno fatto. Ma chi è che non va al giro con un po' di C4 in tasca al giorno d'oggi? Ragazzi, c'è una macchina di vento. Vai via, corri, fai! Via. Sposto, allora Foiano sarebbe rasa al suolo, scusate. E qui veramente qui la sfiga epica. Comunque, vabbè, chiaramente l'hanno fatta esplodere, però con un'esplosione controllata in modo da evitare anche. Vorrei anche vedere. Comunque, il nostro protagonista è tornato appena in tempo per vedere cosa era successo alla sua macchina e spiegare il tutto alle forze dell'ordine, ma niente da fare. E addirittura, oltre che avergli fatto esplodere, oltre il danno, insomma, gli hanno anche fatto una multa per divieto di sosta. Cioè, sicché dunque, cornuto e mazziato, come si suol dire. Poveraccio, va bene. Va bene, ragazzi, è il momento del concorso della canzone scelta. Rubrica! Vinto io! C'è stato un controllo. Come un controllo? Annullato tutto. Sì, annullato il verdetto. Qualcuno ha imbrogliato. Sì, io lo so chi mazza Parentopoli. Mazza non ha vinto, quindi non può. Hanno votato fratelli, cugine, zie, nipoti. Ma zitto, anche te oggi, tuo cugino ha votato. Ho fatto contrattacco perché ho visto che c'era qualcosa che non andava. Ho capito, dici male del straccio e poi fa cencio, scusa. No, allora, poi volevo puntualizzare una cosa. Vi vorrei un attimino spiegare la situazione. Allora, non ha vinto la canzone del Nannotti, ha vinto quella del Bing. No, ha vinto spieghiamo ai nostri ascoltatori il perché. Allora, se non erro, la canzone del Bindi è arrivata ultima, più o meno, con quattro voti. Con quattro voti. Però un voto di questi è del cantiere Rustici. Dunque, siccome i Rustici fanno come gli pare, e considerando il fatto che i Rustici hanno 200 tesserati di media, sono 200 voti, dunque ha vinto quella. Ho capito, che vuol dire? Come? Quindi se compro mica le giurie, Lucaroni, cioè no. qui però, parli quello però, che c'è scritto nel telefono. Però la teoria ci sta, no, scusate, la teoria ci potrebbe anche stare. Allora, quindi la canzone che ha vinto, no, qual è? No, la dico io? È quella del nano. È la mia? Era tua, era tua. È November Rain dei Guns N' Roses. Dopo diciamo. Dov'è? Ora. Tecnico, sì. Madonna! Tecnico. Ero convinto che vincevo io, quindi. Ah, avevi preparato quell'altro, sì, avevi infatti, preparato. Io, che... No, comunque avevi scelto November Rain. Io Bruce Springsteen, Glory Days. Lei, Matteo? Siamo rotti. Dire Straits. Dire Straits. Vindo? Vindi? Chi avevi scelto? John. John Lennon con Stand By Me, giusto? Però ha vinto. Noi gli diciamo. Perché siamo molto contenti. Vinto noi. Vinto noi. Thank you. siamo quasi arrivati alla fine, via. Eh sì, siamo arrivati. Siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di concludere, dobbiamo ricordare un altro compleanno, perché pensavate che fosse finita, invece no. Perché ieri compiva gli anni... Meno male c'è da fare regali, perché con tutti questi compleanni, sennò... Ieri compiva gli anni un certo Steven Tyler, conoscete? Sì, di averlo già risito. Sì, sì, è passato parte. Ieri sotto casa mia. 65 anni. Portati bene. 65 anni. Ma ogni anno gli si allarga la bocca, non si capisce come mai. La bocca che mangerà lui. Recentemente Steven ha dichiarato a una TV australiana di aver speso diversi soldi, diciamo, in sostanze non proprio legali, ecco. Pongo? Il no, DAS. No, è il DAS. Una cosa più farinosa, diciamo. Alla stessa TV ha dichiarato queste parole. Beh, realisticamente avrò speso tra i 5 e i 6 milioni di dollari. Ma non è un problema. Ma non è un problema. Ma non è un problema. Potreste dire che ho sniffato mezzo Perù, ma la verità è che è proprio quello che ho fatto. Compreso anche persone, appartamenti, cioè, strade, macchine. L'ha calcolato in chilometri quadrati. Non lo so come ha fatto. Meraviglioso. Deve capire che lui ha un'unità di misura, che è il Perù. Meraviglioso. Due Perù, tre Perù. Non a caso Tyler e il suo chitarrista Joe Perry vantano il non proprio lusinghiero soprannome di Toxic Twins. Wow. Cioè i... I? Dai, Patrucci, un po' di inglese. Non lo so, cos'è? Toxic Twins. Twins cos'è? Gemelli? Gemelli tossici. Wow, sono inglese, wow. Vi mettiamo una sua canzone, Walk This Way. Questi erano gli Aerosmith di Steven Tyler. precisiamo che ci teniamo veramente a puntualizzare che non dovete, non dobbiamo assumere sostanze, diciamo, stupefacenti, anche perché sennò corriamo il rischio di farci venire la bocca come Steven Tyler, che è larga più o meno quanto il Perù. È sempre l'unità di misura della bocca di Steven Tyler. Io parlerei più che altro di sua figlia, magari un appuntino veloce su sua figlia. Bello. Io la paragono alla ballerina di prima. Ah, sì, bello. A parte scherzi, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Vorrei ricordare l'appuntamento per mercoledì prossimo. Tutti sempre mercoledì. Sempre dalle 19 alle 20. E vorrei rinnovare anche l'appuntamento a seguirci sulla nostra pagina Facebook, All Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Poi il sondaggio che facciamo su Facebook, la canzone preferita da voi scelta, la manderemo in onda. Faremo 5 canzoni, sceglierete quella che vi piace di più. Sì, che poi è anche una sorta di sfida fra noi, perché le canzoni le scegliamo una a testa. Perché tra di noi non stiamo per niente competitivi. Assolutamente. Dopo facciamo una specie di classifica. Dunque, la prossima settimana non deve vincere il Nannotti. Assolutamente. Io sicuro. Poi ragazzi, con tutti i parenti che c'hai, per forza. Brevemente, il podcast, Nanno, il podcast. Ora stiamo lavorando, stasera forse riusciamo a metterlo. Per chi si fosse perso la puntata, insomma, la può riascoltare. La potete riascoltare. Sì, ascoltare o scaricare dal podcast. Va bene. Vi manderemo il link. Yeah. Ciao ragazzi. Alla prossima. Noi si va dal birri ora. Matteo Fango. Sì. We'll be right back.